Capitolo quinto, i principi dell'ordinamento economico dello Stato islamocratico. Nell'ordinamento islamico è disciplinata anche la sfera dell'attività economica, cioè il sistema di produzione, distribuzione e scambio della ricchezza. L'obiettivo che l'ordinamento islamico persegue è che le forme e i meccanismi dell'attività economica siano l'espressione della visione islamica della vita, dell'uomo e del mondo. Ogni uomo, per il fatto di esistere, è titolare di un diritto di partecipazione al godimento delle risorse materiali che Allah, il Dio, ha creato e messo a disposizione di tutta l'umanità. Nell'ordinamento islamico non esistono limitazioni nel godimento dei beni o dell'esercizio di professioni a motivo di razza, sesso, classe. Così pure non c'è spazio per il privilegio economico derivante da monopolio che è vietato. Tutti hanno diritto-dovere di svolgere attività lavorativa al fine di procurarsi i mezzi di vita e a tal fine l'ordinamento giuridico assicura che le attività economiche vengano svolte nel contesto di eque opportunità e giuste possibilità.